l'insegnamento e la pratica del GCOD per uscire dalla dualità. Mag Gchig Lab Sgron, mi scuso per la pronuncia sicuramente sbagliata, fu una mistica e yogini tibetana medievale. Nacque e visse in Tibet nella seconda metà dell'anno 1000. Si sposò, ebbe diverse figlie e figli, ma visse la seconda metà della sua vita come asceta, in ritiro, da sola, in una grotta. Mag Chig Ma, che significa unica madre, fondò un suo sistema spirituale e una sua pratica yoga molto forte e a tratti estrema per uscire dalla dualità. Questa pratica è detta GCOD Yul ed è quella che vi vogliamo proporre. Mag Chig è la fondatrice della tradizione chiamata Recisione dei Demoni, da lei definiti Bdud, un sistema di pratiche yoga fondato su rituali e mantra da praticare quotidianamente 24 ore su 24. Partendo dal concetto che il germe di ogni demone deve essere individuato nella propria mente, la pratica di Mag Chig obbliga lei e i praticanti ad analizzare spietatamente tutti i meccanismi alla base dell'ignoranza, nel senso letterale del termine, ovvero ignorare, non essere a conoscenza. Da qui deriva un inno alla realtà assoluta di grande forza espressiva, i canti spirituali, testamento spirituale della santa. La sua dottrina, che aveva la sua prima scuola iniziatica nel monastero di Dingri, è presieduta da una dea e affronta direttamente e senza mezzi termini i Bdud, ovvero le apparenze demoniache frutto del ciclo delle rinascite, e grazie alla pratica quotidiana ne raggiunge l'assorbimento tramite annullamento. La scuola delle donne è lieta, in questo tempo di scelte estreme, di offrire il supporto di una pratica femminile giornaliera. Ogni giorno pubblicheremo qualche verso del GCOD su cui meditare quotidianamente per uscire dalla dualità. Da Devana, buon ascolto. La grande sezione dell'insegnamento orale, testo originale sulle istruzioni esoteriche della profonda pratica del GCOD. Nella condizione al di là del pensiero, inesprimibile e impensabile, saluto lo spazio che va oltre i concetti oggettivi. Questa grande sezione dell'insegnamento orale è stata messa per iscritto pensando che possa essere di beneficio a qualcuna. La radice dei Bdud è la propria mente. Se si prova desiderio e attaccamento per una qualsiasi percezione della visione fenomenica, si è catturate dai Bdud. Quando nella mente si cerca di catturare la realtà oggettiva, si viene ad essere contaminati. I Bdud si suddividono in quattro tipi. I Bdud che possiedono concretezza, il cui sostegno sono gli oggetti esterni, i Bdud che non possiedono concretezza, il cui sostegno è da cercare nella propria mente, i Bdud dei godimenti, il cui sostegno è l'attaccamento concreto alle virtù, i Bdud che creano il giudizio, il ragionamento dualistico, ed inoltre tutti i Bdud sono compresi nei Bdud che creano il giudizio.